Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori e in particolar modo questa volta alle ascoltatrici. Ecco perché, parliamo di questa notizia che riguarda le donne, saranno sicuramente un po' più soddisfatte loro dei maschietti, e parliamo di donne in pensione a 57 anni. Sì, parliamo di donne, in particolar modo di una nuova circolare che in questi giorni è stata diffusa dall'INPS, che è stata proprio denominata opzione donna, la quale è rivolta esclusivamente alle donne che hanno 35 anni di età lavorativa e pertanto hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni. Una novità che certamente si è presentata in questi giorni, di cui positivamente o negativamente magari ognuno poi la peserà a modo proprio, ma che certamente, considerati i tempi, va un po' contro tendenza rispetto a quella che è un'abitudine e una rassegnazione che la Fornero aveva imposto. Un'opzione che comunque bisogna decidere se aderire o meno entro 31 dicembre del 2015. Ecco, quindi abbiamo un anno e un mese per decidere di partecipare a questa possibilità che era stata introdotta nel 2004 e che prevede appunto questa opzione donna entro il 31 dicembre. La possibilità per le lavoratrici che hanno già 35 anni di versamenti di ritirarsi a 57 anni, invece 58 per le lavoratrici autonome, 57 per le dipendenti, ma con l'importo della pensione che verrà calcolato interamente col sistema contributivo. E qua forse questo è il problema. Sì, è un problema, perché il sistema contributivo rispetto al sistema retributivo è più penalizzante. Certo, come abbiamo detto, è un'iniziativa che, letta così, sembra che vada un po' contro tendenza e vada incontro anche a quelle che sono un po' le esigenze che gran parte delle lavoratrici hanno in virtù appunto di un'età che, insomma, già 35 anni e 57, vabbè, io dico anche non solo per le donne, ma dovrebbe essere anche per gli uomini, è certamente ragguardevole. Però certamente è un'opzione sperimentale che però dà purtroppo ha come penalità rispetto a quello che dovrebbe essere un calcolo della pensione che una volta era maturata nello stesso periodo di andare in pensione con un assegno poi decurtato che arriva addirittura fino al 20% di quello che è un importo che è determinato circa in un valore del 70% rispetto a quanto versato o rispetto un po' all'ultima mensilità. Bisogna sempre fare molto bene le valutazioni. Immagino magari una lavoratrice autonoma che ha versato i contributi e per quello che guadagnava, a un certo punto forse la minima è più di quello che prenderebbe con i versamenti? Non lo so, è una domanda che ognuno dovrebbe farsi e ovviamente ognuno farà i suoi conti poi per decidere se aderire a questa opzione. Beh, ricordiamo che ad oggi l'alternativa è quella per le donne di andare in pensione a 61 anni con 41 anni e mezzo di contributi versati, per cui bisogna capire in base anche alla disponibilità economica di ciascuna persona se valutare anche una scelta di vita determinata anche appunto da una qualità che secondo noi non bisogna trascurare. Certo che apprezziamo l'iniziativa, perché oggi riteniamo che quel meccanismo imposto dalla Fornero e votato da tutti i parlamentari di sinistra e di destra certamente non è stata una bella iniziativa, perché poi aveva iniziato la Fornero bruscamente quella che era un po' una riforma che doveva andare invece a regime con più gradualità. Certo, oggi pensare di andare in pensione non si sa più quando e addirittura l'anzianità dei 40 anni e come tabù è decaduto e la quantità di versamenti è legata anche all'aspettativa della vita, a prendere una notizia di questo genere per molti, soprattutto per chi è esodato, può dare veramente una speranza, io dico, rispetto a quella che magari certe persone si trovano oggi a lavorare e nella prospettiva anche dove lo fare per molti altri anni. Quindi un po' da valutare, da rimanere anche molto attenti riguardo questa opzione che abbiamo detto scade il 31 dicembre, ma che soprattutto dà un'opportunità che secondo me ha una certa rilevanza. Conviene contattare l'INPS direttamente e iniziare a chiedere lumi? Io penso che la cosa più corretta da fare è prendere quelli che sono un po' tutti gli estratti delle posizioni contributive che ogni anno i datori di lavoro ci danno, occasione di dichiarazione dei redditi, il famoso CUB, prendere appuntamento presso l'INPS e fare un po' una panoramica. Però a questo anche informarsi, non evitare di perdere tempo se già siamo i requisiti per poterlo fare, considerato un pochino quella che è la posizione di ciascuno. Certamente per chi non rientra purtroppo ci sarà un gradino che non sarà tanto morbido, perché poi riprende quella che è la riforma Fornero in vigore, che passa dai 35 o ai 57 direttamente al 41 al 42 e ai 61 o 62 anni di età. Certo, e sono numeri dolorosi, mi viene da dire, vabbè. Anche perché c'è poi tutta la categoria dei giovani che veramente la pensione, secondo me, se la sognano, e credo di non sbagliare quando dico questo. Io intanto ti ringrazio, Carlo, diamo appuntamento con te anche alla giornata di giovedì, dove ci ritroveremo per altre segnalazioni insieme all'ADICO, Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.